E allora vai via, non voglio che sei nella mia corsia. Mi bendo gli occhi per quanto sia ridicolo, perché se li tengo chiusi ti sogno mia. Il sole bacia il tuo volto, ma non vuole avere niente a che fare col corpo. Quando ti guardo, cerco di pensare ad altro, ma mi hai già coinvolto. Mi sento inadatto, lo ammetto. A volte vorrei essere qualcun altro, mi cerco. E un non farmi lei. Mi sento inadatto, lo ammetto. A volte vorrei essere qualcun altro, di certo. Ti porterei con me. Non ti vedo più, non voglio più vedere chi sei. Sapessi cosa fare, forse non lo farei, ma se avessi mezza opportunità, ti giuro la giocherei. Vorrei tenerti stretta fino a non farti respirare, o rubare il tuo respiro, e ogni notte poterlo ascoltare e sentirti di più. Sento inadatto, lo ammetto, a volte vorrei essere qualcun altro, di certo, io non fallirei. Sento inadatto, lo ammetto, a volte vorrei essere qualcun altro, di certo. Ti porterei con me, yeah, ti porterei con me, ti porterei con me, ti porterei con me, oh, oh, oh. Lasciami andare, allora lasciami andare via, allora lasciami andare, allora lasciami andare via da te. Allora lasciami andare via, allora lasciami andare, allora lasciami andare via da te.